Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il 28 dicembre 2015, esattamente 2 settimane prima di David Bowie, è morto un altro grande, grandissimo personaggio del panorama musicale mondiale. Ci sono delle similitudini con David Bowie nella dipartita di questo personaggio, perché Bowie aveva compiuto 69 anni 2 giorni prima della sua morte, e anche il nostro protagonista aveva appena festeggiato addirittura il 70° compleanno da 4 giorni. E non ci sono altre similitudini nel genere musicale, però anche il nostro personaggio ha fatto del look la sua bandiera, creando un personaggio straordinario, forse, come dire, meno versatile negli anni rispetto a Bowie, che ha cambiato tante facce, però lui era unico, inconfondibile, ha segnato in maniera indelebile anche lui la storia della musica. E quindi noi dedichiamo la nostra puntata a questo mito della scena musicale, questo combattente del rock and roll, uno dei frontman più longevi nella storia delle band musicali, un bassista, cantante, fondatore di quello che è stato definito il miglior peggior gruppo del mondo, cioè i Motorhead. E oggi il nostro protagonista è Lemmy Kilmister. Lo facciamo anche grazie a un nostro ascoltatore, Francesco Sala da Bergamo. Buongiorno Francesco. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Ho detto giusto Kilmister secondo te? O tu come lo pronunci? Lo chiamo solo Lemmy. Ecco, bravo. E in effetti anch'io lo chiamerò solo Lemmy. Senti, perché vuoi che noi ci parli di Lemmy? Perché Lemmy è stato uno dei pochi veramente fedeli a se stesso. Non è mai stato una maschera, è sempre stato veramente, ha sempre voluto bene ai suoi fan. È vero. Perché tutti avremmo voluto essere un giorno come lui. Lo hai visto almeno dal vivo? Una settimana. L'hai visto dal vivo? Sì. È vero, ognuno di quanto avrei voluto. Lo so, però erano veramente forti, è vero. Ed è bella la frase, almeno una settimana da Lemmy, tutti dovremmo saperla vivere. Grazie Francesco, buona puntata. Grazie mille, ciao. Mentre dalla regia mi dicono Kilmister, e allora noi lo chiameremo Kilmister, ma come dice Francesco, tra poco lo chiameremo solo Lemmy per tutta la puntata. Raccontare la sua storia vuol dire raccontare i Motorhead, perché i Motorhead erano lui, le due cose si intrecciano indissolubilmente. Lui non è stato solo il fondatore, l'autore delle canzoni, ma anche l'unico che ne ha fatto parte per tutta la sua vita, 40 anni di Motorhead. E quello che sicuramente a lui avrebbe fatto piacere è definire correttamente il genere musicale di questa band. È stata considerata una band di heavy metal, in realtà era nata nel periodo punk, ma anche di hard rock, di thrash metal, speed metal, tante definizioni, anche perché i generi musicali si intrecciano tra di loro. La cosa migliore è far rispondere lui e farvi sentire quello che era il suo mantra, la frase con la quale lui apriva tutti i concerti dei Motorhead. We are Motorhead. We play rock and roll. We are Motorhead, we play rock and roll, dice Lemmy. E già da quei pochi secondi avete intuito due cose: uno, che ha una voce molto strana per un cantante, insomma non ha una voce particolarmente limpida, ha una voce rauca che è solo sua; due, quel rumore che sentivate era il basso, perché lui il basso lo suonava ovviamente col plettro, come andrebbe secondo me suonato sempre o quasi, e con una specie di distorsione probabilmente procurata anche dal fatto che dietro di lui c'erano montagne di amplificatori. Lui, secondo i critici, ha unito il punk e l'hard rock, perché ha dato vita a un rock and roll duro, veloce, saturo. Però al di là delle definizioni, quello che conta è una presenza così determinante al centro del palco, con il suo basso, con il microfono messo in alto, in modo che lui cantasse guardando il cielo, un'altra delle sue particolarità. Non ha mai ceduto alle mode del momento, ha sempre rappresentato un punto fermo e un'immagine senza tempo e senza età. Lemmy Kilmister è sempre stato un appassionato della Seconda Guerra Mondiale, collezionava cimeli militari, oggetti storici, si vantava per esempio di possedere un pettine appartenuto a Eva Braun. aveva una raccolta di armi da taglio, sciabole da cavalleria, baionette, katane giapponesi. Era però la sua immagine quella che colpiva, perché aveva un aspetto inconfondibile, due grossi nei sulla guancia sinistra, una particolare acconciatura ottocentesca. Lui univa le basette ai baffi, e una acconciatura che è stata ribattezzata The Lemmy proprio in suo onore. E si è vestito tutta la vita sul palco e fuori dal palco con divise militari, ha sempre portato in testa cappelloni da cowboy o cappelli militari con i fregi tipici dei vari eserciti, compreso quello nazista, e poi gli stivaloni, cappelli lunghi, al collo una croce di ferro, la decorazione militare usata nel regno di Prussia. Però non lasciatevi ingannare dalle apparenze, Lemmy non è mai stato un guerrafondaio, un nazista, anzi, ascoltate. La guerra è stupida, è solo questione di politica. I governi e i capi religiosi dovrebbero lottare a morte tra di loro su un ring. Chi vince, vince. Non far morire milioni di persone innocenti. La guerra è oscena. E qui è molto interessante ragionare sul fatto che la sua passione per le divise, per gli oggetti militari, nasce da un, come dire, interesse storico, ma anche da un modo, da una voglia di esorcizzare e da un apprezzamento iconografico verso determinati modi di vestire e molto militari. Per esempio, lui risponde così a una denuncia per aver indossato un cappello nazista in Germania. Dall'alba dei tempi i cattivi hanno sempre indossato le migliori uniformi. Napoleone, i confederati, i nazisti. Voglio dire, le uniformi dell'SS sono semplicemente spettacolari. Erano le rockstar di quei tempi. Ma non ditemi che sono nazista perché indosso un uniforme. Nel 67 ho avuto una fidanzata di colore e dopo di lei molte altre. Non capisco il nazismo e non l'ho mai nemmeno considerato. È vero, i cattivi hanno sempre usato le uniformi migliori e non c'è nulla di male a approcciarsi a quell'iconografia. E insomma, il carattere anticonformista di Lemmy traspare anche da cose di questo genere. Lui nasce a Baslem, che è una comunità di Stoke-on-Trent nello Staffordshire in Inghilterra. Nasce nel 45 alla vigilia di Natale, il primo Natale di pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La madre è una bibliotecaria, è una professione che influenzerà moltissimo Lemmy, che è stato un grande lettore di libri per tutta la vita. Il padre è un cappellano della Royal Air Force, un uomo di chiesa. Bene, il comportamento di questo padre, che non è un comportamento esemplare, sarà determinante nella vita di Lemmy, soprattutto nel suo rapporto con la religione, un rapporto parecchio burrascoso. Il falco e il gabbiano. Ian Fraser Kilmister, quello che sta per diventare il grande Lemmy, ha solo 3 mesi quando suo padre abbandona lui e la madre al proprio destino. E sembrerebbe una cosa impossibile perché il padre è un uomo di chiesa, eppure accade. Ascoltate quello che Lemmy racconterà molti anni dopo in un'intervista. All'inizio la mia vita fu indirizzata dalla chiesa perché mio padre era un vicario. Ma io mi domando, se sei un vicario in contatto con Dio, come puoi lasciare mia madre disperatamente infelice a causa della rottura del matrimonio? Come può la Chiesa dirmi che devo essere un buon cattolico, che devo sposarmi seguendo il rito cattolico? Io sono responsabile delle mie azioni e di nessun altro. E non vi abbiamo tradotto proprio tutto quello che ha detto Lemmy. La sua posizione però si capiva benissimo. Quindi il padre, l'uomo di chiesa, lascia moglie e figlio da soli. La madre deve darsi da fare parecchio per crescere questo bambino, l'aiuta la madre. Insomma, e il bambino cresce allevato dalla mamma, dalla nonna, solo da donne. Questo sicuramente lo aiuterà a comprendere bene l'universo femminile, però è sempre al verde perché la madre non è che navighi nell'oro, e allora è sempre in cerca di un prestito. La sua frase classica è "Lemmy è quit on Friday, prestami qualche spicciolo per venerdì sera". Questo Lemmy dai oggi e dai domani gli rimane addosso, diventa il suo soprannome per sempre. Le cose migliorano un po' quando la madre si risposa, la famiglia si trasferisce nel Galles, di dove è originario il patrigno. E la prima chitarra con la quale viene in contatto il giovane Lemmy è quella della madre, una Lap Steel. Sono chitarre usate per il blues, che si suonano da seduti tenendole appoggiate sulle gambe, però a lui comunque piace suonarla quella chitarra. Però ha un altro sogno da adolescente, vuole diventare allevatore di cavalli, e il motivo di quelli importanti: i cavalli piacciono alle ragazze e a Lemmy le ragazze piacciono moltissimo, e quindi inizia a lavorare in un maneggio. Però se ti piacciono le ragazze, invece che fare l'allevatore di cavalli, insomma, è meglio suonare in una band. E un giorno, mentre sta comprando degli stalloni in una fiera agricola, sente un disco. Questo è il grandissimo Little Richard. Siamo negli anni 60, nasce il rock and roll, arriva Elvis Presley, Lemmy impazzisce, molla i cavalli, prende in mano la chitarra che non abbandonerà mai più. Tra l'altro gli procurerà, come dicevo prima, più contatti con le ragazze di quanto non avrebbero fatto i cavalli. Dei suoi ispiratori, di Elvis, di Little Richard, dirà questo molti anni dopo: Elvis ci ha insegnato come essere, il look che dovevamo avere. Little Richard ci ha insegnato che sound avere attraverso le sue canzoni. Con dei modelli così non si può che iniziare bene. Infatti lui dà vita a diversi gruppi: gli Opal Butterfly, Sam Gopal, poi The Rocking Wickers. Incominciano a essere una discreta band questi ultimi. La chitarra si sente nel pezzo Say Mama, è lui che la suona e si capisce già di che pasta è fatto. Insomma, nascono e si sviluppano le due grandi passioni della vita di Lemmy: la musica e le ragazze. E anche con le ragazze parte subito alla grande, perché a 16 anni diventa padre. E la sua fidanzatina ne ha 15, il bambino viene dato in adozione e Lemmy non lo vorrà mai conoscere. Sentite perché. Non l'ho mai conosciuto perché è stato adottato appena nato. Lei aveva 15 anni all'epoca. E fu una notizia molto brutta per quegli anni. Oh, hanno fatto sesso! Oh, mamma mia! Poi lei lo ha ricercato e l'ha trovato. È stato adottato da una coppia di gente piuttosto anziana. Sembrano più i nonni che i genitori. Quando lei gli ha detto che era la sua vera madre, lui ha chiesto di vedere anche come fosse il suo vero padre. Io non l'ho mai voluto conoscere. La mia soddisfazione di incontrarlo non vale rovinargli la vita. Insomma, una scelta delicata, non totalmente condivisibile. Ma nel frattempo siamo nel 67 e Lemmy ha un primo colpo d'ala straordinario. Passa a suonare il basso, naturalmente in una maniera veramente particolare, perché suona dei veri e propri accordi. Viene contattato dal più grande di tutti, Jimi Hendrix, e diventa il suo rodi, il suo tecnico delle chitarre durante i concerti. Ma non solo, è anche quello che gli procura la droga. Quando lavoravo con Hendrix, tutti ci facevamo gli acidi, chiunque io conoscessi. Allora si diceva che se lavoravi per lui per due giorni, il terzo non lavoravi perché eri morto di overdose. Se riuscivi a farcela eri ok, ma tutti prendevano qualcosa. Non è difficile da immaginare, chiunque a quel tempo si drogava. In un mondo in cui tutti si drogavano, però c'è l'esperienza con Jimi Hendrix, che ovviamente è qualcosa di incredibile per lui, perché lavorare a stretto contatto con un personaggio di quella levatura artistica ti lascia un bagaglio di conoscenze che ti accompagneranno per tutta la vita: conoscenze, informazioni, sensazioni, una maturazione artistica, quella di Lemmy, che lo rende un performer di altissimo livello. Nel 71 entra a far parte di una formazione molto strana, psichedelica, si chiamavano gli O'Kind, era una rock band britannica che esisteva già da un paio d'anni. Lui entra a farne parte in qualità di bassista e di cantante, ma il suo arrivo sancisce anche l'inizio del periodo di massimo splendore di quella formazione, che peraltro esiste tuttora. E lui scrive per gli O'Kind alcuni tra i loro più grandi successi, come The Watcher e Silver Machine, che nel 72 scala le classifiche britanniche dei singoli. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando una intera vita consacrata al dio del rock and roll. Il nostro protagonista di oggi è Lemmy Kilmister. Lemmy, il cantante, il bassista, l'autore, il fondatore dei mitici Motorhead. Con il suo look inconfondibile, i due grossi nei sulla guancia sinistra, i baffoni ottocenteschi, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, sempre vestito con divise militari, col cappello da cowboy, con richiami da ufficiale dei confederati o addirittura nazisti, con la croce di ferro prussiana al collo e con il suo rivoluzionario modo di suonare il basso. Tutto in lui è unico, come ad esempio il fatto di cantare, lo dicevo prima, col viso rivolto verso l'alto, con il microfono posizionato su un'asta molto lunga in maniera da non guardare mai né la chitarra né il pubblico. Un'abitudine presa ai tempi dei suoi primissimi concerti, quando ad ascoltarlo c'era poca gente e lui voleva risparmiarsi questa triste visione, che poi invece in questo modo insomma diventerà il suo marchio di fabbrica. Insomma, un personaggio straordinario che attraversa 40 anni della storia della musica mondiale. E nel nostro racconto siamo arrivati al 75. Lemmy è il cantante e bassista degli Hawkwind, il loro successo è notevole. Poi accade un fatto increscioso, però: durante un tour in Canada Lemmy viene arrestato per possesso di anfetamine e la band lo licenzia in tronco. La sua posizione in proposito però è molto chiara. È una cosa meravigliosa prendere le anfetamine, da non credere, e anche l'acido. Non importa se le persone dicono che è male, loro non sanno niente degli acidi, non sanno niente nemmeno di tante altre cose, della prima e della seconda guerra mondiale. Ma io vi posso assicurare che gli acidi mi hanno reso una persona migliore. Nel corso degli anni lui lo ripeterà spesso: l'assunzione di determinate droghe lo ha reso una persona migliore e che tutte le sue composizioni sono sempre nate sotto l'effetto di qualche stupefacente. Ma c'è qualcosa che lui assolutamente non sopporta ed è l'eroina. Ho visto tantissima gente morire di eroina. È solo l'eroina. Nessun'altra droga uccide le persone. È facile da trovare e deve essere stupenda. Io non l'ho mai provata, ma deve essere fantastica se la gente muore per lei. E passa la vita ad aspettare la dose successiva. È terribile. Ti trasforma in un pazzo e ti uccide. Diventi un ladro o una puttana. E poi muori. Com'è vero, come ne abbiamo visti tanti. Non sapremo mai se veramente l'assunzione di queste sostanze stupefacenti abbia veramente reso Lemmy una persona migliore. E di certo c'è l'arresto e il conseguente licenziamento dagli Hawkwind. Però questo diventa il colpo d'ala della sua vita, perché a questo punto lui decide di formare una band tutta sua. Siamo nel 75, lui recluta il chitarrista Larry Wallis e il batterista Lucas Fox e dà vita a una band che chiama i Bastards, i Bastardi. Ma quando il loro agente fa notare che magari con un nome così è un po' difficile andare in TV, scalare le classifiche, essere trasmessi, Lemmy lo cambia, sceglie il titolo dell'ultima canzone composta quando faceva ancora parte degli Hawkwind. Questa canzone si chiama Motorhead. E si gira sempre attorno allo stesso argomento, perché Motorhead è un termine gallese che significa l'effetto di alcuni tipi di anfetamine. Questa scelta, insomma, è già una dichiarazione di interesse, una dichiarazione di intenti nei confronti di determinate droghe, anche se poi lui in realtà in anni successivi ha dichiarato che l'unica sua dipendenza è stata quella dal Jack Daniels, il famoso whisky del Tennessee che lui ha sempre bevuto mischiato alla Coca-Cola, tanto è vero che la Jack Daniels ha anche creato un'edizione limitata del suo whisky firmata Motorhead. I Motorhead iniziano a cambiare molto spesso la formazione, tutto ruota attorno a lui. Wallis e Fox vengono sostituiti da Eddie Clark e dal batterista Phil Taylor, e questa è la formazione però con cui la band ha veramente i primi successi. Il sound è molto strano, la voce gutturale di Lemmy mette d'accordo sia il punk che il rock metal. Il loro grande successo arriva nell'ottobre dell'80 con uno dei capolavori di Lemmy, che unisce due delle sue più grandi passioni, la musica e il gioco d'azzardo, Ace of Spades, Asso di picche. E dopo l'album Ace of Spades e l'album live No Sleep Till Hammersmith, i Motorhead diventano una delle più importanti band di heavy metal della storia. La formazione cambia ancora parecchie volte, ma è l'unico che rimane sempre nel centro del palco è Lemmy. Poi nei primi anni 90 la band si stabilizza nella formazione definitiva con Phil Campbell alla chitarra e il batterista Mickey D. It becomes more than just a team. It becomes personal. Diventa più che solo un team di lavoro, diventa personale, più profondo del tuo rapporto con la moglie o il marito. C'è tra di noi qualcosa che non si può definire, qualcosa di così profondo che sfugge all'analisi. E proprio per questo mi piace. Lemmy ha un rapporto stretto, epidermico con la sua band, è la sua vera famiglia, gli altri due si sposano, hanno dei figli, hanno una loro vita, lui rimane single, anche se letteralmente assalito dalle donne che lo amano, a cui piace, insomma almeno a una certa categoria di donne, e lui è un grande estimatore del genere femminile, e un giornalista americano negli ultimi anni della sua vita gli ha chiesto di fare un calcolo delle sue avventure, lui ha parlato di 2000 donne, poi ha replicato che magari non sono state più di 1000, ma il motivo del suo essere single lo ha spiegato molto bene. Non ho mai trovato una donna che fosse in grado di accettare tutte le altre mie donne. A me non piace essere falso. Non mi va di sposarmi e poi correre dietro alle altre. Se sei sposato, sei sposato. Io non potrei mai farlo. Praticamente quindi lui ha detto: io credo molto nel matrimonio e nei valori del matrimonio e proprio per questo non mi sposo. È una dichiarazione di grande onestà da un certo punto di vista. Tra l'altro lui ha anche avuto un secondo figlio che nasce quando lui ha solo 21 anni, quindi sempre molto giovane. Anche in questo caso ovviamente non avrà alcun rapporto con lui per molto tempo, lo conoscerà anni dopo. Oggi questo ragazzo, che non è più un ragazzo, è un uomo, si chiama Paul e fa il musicista. E negli anni Lemmy, con i Motörhead o anche per conto suo, collabora con molti artisti, scrive canzoni per Ozzy Osbourne, come Hellraiser, come Mama I'm Coming Home, come I Don't Want to Change the World, con la quale Ozzy vince il Grammy Award nel 94. Ma un Grammy lo vincono anche loro, i Motörhead nel 2005, la Best Metal Performance con la canzone Whiplash, una cover dei Metallica. Thank you, everybody. You've got a lucky face. It's great. This is the third time, and third time the charm people kept saying to us. So this is amazing. Thank you, Todd Singerman, our manager, and thanks everybody. E Lemmy, oltre a essere un personaggio adorato dal suo pubblico, è amato molto anche dai suoi colleghi per il suo carisma, per la sua cultura, per la sua simpatia, realizza collaborazioni importanti, suona con i Ramones, partecipa all'ultimo concerto dei Ramones nel 96, compone diverse canzoni per la World Wrestling Entertainment, per il suo grande amico Paul Levesque, noto con il nome di Triple H. Il nome di Lemmy e dei Motörhead entra definitivamente nella leggenda, tanto che nel 2010 viene realizzato un documentario, viene definito un rockumentary dal titolo Lemmy, che ripercorre la vita del bassista dai suoi esordi fino alla fine con i Motörhead. La realizzazione del film è divertentissima, ricca di aneddoti esilaranti. Ascoltate il ricordo di Greg Oliver, regista, assieme a Wes Orshowski. Lavorare con Lemmy è un punto di domanda. Può essere in buona, eccitato all'idea di fare qualcosa, oppure no? Ci aveva detto che era capace di fare le patatine fritte. Noi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente filmarlo mentre le faceva. E lui ci ha detto, ok. Allora siamo andati a casa sua, nella sua cucina. Abbiamo sistemato tutte le luci, la telecamera. E quando eravamo pronti, lui ci ha detto, no, non lo faccio, perché la mia cucina è troppo sporca. Non mi va che la filmiate. Io e Wes ci siamo guardati e gli abbiamo detto, te la puliamo noi la cucina. E lui fa, se mi pulite la cucina, io vi faccio le patatine fritte. Nel 2015 Motörhead festeggiano 40 anni di vita, un record straordinario di longevità, all'interno del quale Lemmy doppia il record, essendo tra i frontman più longevi nella storia della musica. È un successo che era impossibile da prevedere, altrettanto impossibile da pianificare. Quando inizi, fondi una band e incominci a suonare con degli altri ragazzi. Non pensi a quanto durerà, non guardi al futuro. Voglio dire, 40 anni, sembrano una barzelletta, no? È ridicolo. Io non so che cosa sto per fare ora. Noi non piacevamo a un sacco di gente. Ci avevano dato 6 mesi di vita. Beh, al diavolo. Loro sono tutti andati e io sono ancora qui. So, fuck them. They're all gone and I'm still here. È intervistato dopo l'attentato di Parigi del 14 novembre del 2015, Lemmy ribadisce la sua condanna a qualsiasi forma di violenza. L'ho visto alla televisione appena successo, c'erano ancora gli spari. È una cosa così stupida. Questa gente è stupida. Perché cosa lo fanno? Credono di essere degli eroi a uccidere gente innocente. Noi abbiamo suonato al Bataclan molte volte, almeno 10 volte. Per noi è una data tipica. Bisognava suonarci il giorno dopo. Se ci fermano, allora vincono loro. E quello non sono io. Io faccio quello che devo. Se la polizia cancella le date, io non ci posso fare niente. Ma noi non abbiamo cancellato nessun concerto. Al diavolo queste persone. Loro non amano il rock and roll e io non amo loro. Fuck those people. They don't like rock and roll. And I don't like them. Da alcuni anni soffriva di diabete, di aritmia cardiaca, tanto che a un certo punto annuncia di dover abbandonare il Jack Daniels con la coca, Coca-Cola, in favore di qualcosa di più salutare, quindi passa a succhi d'arancia e gin o vodka. Però nel 2015 la sua situazione si aggrava a causa di un tumore alla prostata. Lemmy Kilmister of Motorhead has passed away today, December 28th. At the age of 70. Il 28 dicembre 2015 Lemmy Kilmister muore 4 giorni dopo il suo 70° compleanno. Di fatto questo decreta ovviamente la fine dei Motorhead. Al suo funerale vanno tutti, c'è il gota del rock mondiale, ognuno racconta qualcosa, qualche aneddoto di vita vissuta con Lemmy tra commozione e divertimento, ed è particolare vedere gente di 65-70 anni tatuata con i capelli lunghi che si commuove raccontando magari di avventure avvenute in un bordello o durante un concerto prima o dopo una rissa. Solo alcuni mesi prima, durante un'intervista in occasione dell'uscita dell'ultimo album della band, aveva detto questo. La morte ti fa paura? No, ho il senso dell'umorismo. Al mio funerale voglio la canzone di Sally Olio. Sarebbe divertente. Come vorresti essere ricordato? Come un uomo onesto, un uomo d'onore. E verrà ricordato per tantissime cose Lemmy, intanto per aver coniugato il punk all'heavy metal, allo speed metal, per aver creato un genere con una voce inconfondibile, con un suono inconfondibile, e poi per essere stato a modo suo un punto di riferimento dei tanti che il rock ha dato alle nostre generazioni. Ci sono vite di persone che hanno saputo dare il famoso colpo d'ala e persone che hanno volato comunque e ovunque come Lemmy Kilmister, leader dei Motorhead. Ciascuno di noi nella sua vita può dare un colpo d'ala e può anche cadere, ma può anche risalire. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che noi si parli, scrivete al nostro sito www.radio24.it oppure al falco il gabbiano chiocciola radio24.it oppure venite a cercarmi nei miei social o nei nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.